Storie de noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Buonasera alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto da parte di Gesi e di Antonio. Come avrete capito, anche questa sera, diciamo, è una puntata monoconduttore, nel senso che Gesi ha pensato bene di allontanarsi per qualche tempo, lasciandomi l'onere e l'onore di intrattenervi. Allora un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto, che invitiamo alla nostra consueta passeggiata virtuale tra sentimenti, emozioni e ricordi sulle frequenze di 88 e 70, 94 e 60 in FM. Per chi lo desidera, segnaliamo anche la possibilità di seguire il programma in streaming o di effettuare il download dal sito bluradioveneto.it. E salutiamo naturalmente il nostro regista. Questa sera avremo un ospite, oltre ad avere una conduttrice virtuale, nel senso che è qui con noi in spirito, avremo un ospite virtuale. Sarà questa una puntata monotematica, su impulso e richiesta di alcuni, direi molti, dei nostri ascoltatori. Rendiamo omaggio a uno scrittore, un cantore delle storie da noaltri, proprio Bruno Lorenzon, da Roncade, in provincia di Treviso. Noto scrittore, diciamo, che ha scoperto questa vena, diciamo, tra ironico e descrittivo, per merito dell'editore, che ha avuto un grande coraggio all'epoca, Silvano Piazza. E naturalmente iniziamo la nostra carrellata con una canzone che è un po' simbolica, diciamo, di tempi che furono, di tempi che non sono mai sufficientemente rimpianti. Me compare Giacometto. Quando il canto è mezzo e meco, che fa proprio innamorare. E quando il canto, canta, canta, mezzo e meco, meco, meco, che fa proprio, proprio, proprio innamorare. E quando il canto, canta, canta, mezzo e meco, meco, meco, che fa proprio, proprio, proprio innamorare. Giorno la parola per far festa gli invitati, larghe tira con regalo, l'anno mette a cucina, e larghe tira, tira, tira con regalo, callo, callo, l'anno mette, mette, mette a cucina, e larghe tira, tira, tira con regalo, callo, callo, l'anno mette, mette, mette a cucina. E lega rotto, rotto, rotto, capo, naro, naro, naro, dalla rabbia, rabbia, rabbia che lega. Ed eccoci in studio con la prima, diciamo, di queste prima storia, prima raccolta di questa trilogia dell'epopea contadina. Drio Arestera e il parlar dei noni. Di come dottor. La meccanizzazione in agricoltura, già a cavallo del secolo, rende meno necessario il bracciantato. dando l'avvio a un contenuto processo di inurbamento che non stravolge le dimensioni delle nostre piccole città e degli altri centri abitati, ma favorisce tuttavia l'affermarsi di arti e professioni nuove in risposta alla crescente richiesta di servizi e di merci che ormai vengono immesse sul mercato con relativa abbondanza. Malgrado le decimazioni provocate dalle guerre, dalla spagnola e dalla forte emigrazione, le borgate si popolano e lo sbocco occupazionale compie un salto di qualità. La ricerca di lavoro si orienta decisamente verso il terziario e l'artigianato. Adesso chi che ha un mestiere in man fruisce di un reddito superiore a quello che può dare la campagna e gode di una maggiore considerazione. Fino ad allora, a parte le prerogative del censo, i soli a contare in paese erano il parroco, il sindaco e il dottore. Ognuno di questi personaggi pubblici svolgeva in seno alla comunità un ruolo specifico, forse più importante di oggi, ponendosi come punto di riferimento per i minuti bisogni dello spirito e del corpo. Il fatto che, specialmente nei paesi meno popolosi, tutti si conoscessero fra loro, da un lato permetteva interventi mirati e dall'altro lato era una garanzia contro i favoritismi. Prete e sindaco erano pur sempre gente come noi altri. Sovente erano chiamati a tutelare i tanti che a scuola avevano schincalpenin e si trovavano alle prese con l'analfabetismo, l'imprescrutabilità delle leggi e non di rado i raggiri di ciarlatani e pataccari. Non va dimenticata, per inciso, l'efficacia con cui alcuni di essi intervennero in momenti difficili della storia locale e la funzione di mediazione da loro svolta fra le frazioni in lotta nei periodi più devastanti del dopoguerra. Da parte sua, il medico di condotta avevano competenze e una capacità professionale che gli derivavano dalla continua frequentazione di un ambiente predisposto a patologie endemiche, collegate purtroppo alla scarsa igiene e alla cattiva alimentazione. Accanto alla figura del dottor si accostava spesso quella della levatrice, indispensabile per l'assistenza al parto che avveniva senza eccezioni in casa e con un ritmo dimentico della necessità di un contenimento demografico. Quanto la partoriente era ormai sui paraori, si chiamava la comare, era conosciuta da tutti con questo cortese appellativo, che procedeva per la fase finale dell'evento. Chi non aveva catafato il mondo e non lavorava la terra si ingegnava dunque a fare altri mestieri. L'alternativa era salta sto fosso o basa sto Cristo, e a meno che non fosse nato nel bombaso, uno aveva poco da tirare il cuoio in drio. Artigiani e commercianti, talvolta improvvisati tali, colonizzano i centri urbani rendendoli popolosi e spesso prosperi. Gli androni e piano terra delle abitazioni in paese vengono adattati alle esigenze dell'impresa familiare. Indifferenti alle catalogazioni per tabelle merceologiche e distanti anni luce dalla proterva concorrenza dei discount, aprono le loro botteghe dalla mattina alla sera, compresi i giorni festivi, offrendo, come qualcuno specificava nell'insegna, non tutto, ma di tutto. In contrasto con la consuetudine arcaica del baratto e dello scambio d'opera, i botteghieri incassano denaro contante, skei, paianche, bessi e svansiche, che è una delle poche voci ereditate dalla dominazione asburgica e viene dal nome della lira austriaca d'argento del valore di 20, svansic, soldi. La carta moneta non incontrò mai presso la gente del popolo un'accoglienza plebiscitaria, forse perché non era al tatto così concreta come il metallo del conio. Gli spiccioli in ogni caso non venivano abbonati, perché chi non fa conto del scheo non vale un scheo. Ma poiché di soldi ce n'erano pochi, era diffusa l'abitudine di comprar a incredenza, facendo annotare dal casoin, dal spessier, dal becker o dal ferramentier sul libretto della spesa l'importo dovuto, che veniva saldato periodicamente. Lungo la via principale, quella che fra le due guerre in ogni centro abitato d'Italia venne ribattezzata via Roma, e le altre strade trafficate, fiorivano i mestieri più disparati. Dietro le tendine di lino della piccola bottega il barbier accorciava barbe e favoriti e rapava a zero con la macchinetta tutti i ragazzini, cure radicali contro la pediculosi. Per ugar o usare il ferro, ossia per affilare il rasoio, lo passava sua coramea appesa in un angolo vicino alla sputacchiera. Le signore andavano raramente dalla parrucchiera, poiché di solito provvedevano personalmente a farsi i rissi in casa. e Sartor e a Sartora cucivano abiti su misura, ma più spesso rancuravano quelli più frusti, consunti, cioè. L'esperienza acquisita nel recuperare anche i capi onfegai permetteva alle persone più modeste di presentarsi manco peso e di parer buon in piazza. Da parte sua il Scarper non stava mai de bando, cioè in ozio, per quanto i contadini andassero spesso scalzi e le scarpe buone le indossassero soltanto nelle grandi occasioni. Via pal giorno essi portavano gli zoccoli e per far durare più a lungo le suole di legno usavano meterghe e broche, ossia imbullettarle rinforzando punte e tacchi con lamette di ferro a mezzaluna. Il muner ovviamente forniva la materia prima al forner dopo aver macinato il grano che veniva conferito al muin dopo la trebbiatura. Per quanto molte famiglie magari a turno cuocessero il pane autonomamente, quello del fornaio era ed è un mestiere particolarmente apprezzato, per quanto in quei tempi di scarse applicazioni tecnologiche ogni bravo artigiano meritava una stima proporzionata alle sue capacità. In ambienti necessariamente meno angusti operavano il botter, che sistemava i carretei e sottospine, il marangon, cioè il falegname, il tapessier e il bandetta, cioè il lattoniere. E il favaro gestiva il suo laboratorio delle parti del maniscalco, più comunemente detto il ferracavai. A seconda della stagione dell'incarico ricevuto, il murer e il pitor lavoravano all'interno o all'esterno, portandosi dietro gli strumenti necessari. L'uno cassioea, fraton, boea e mastea paramalta, l'altro a seconda della specializzazione, perché non si doveva confondere l'imbianchin col decorator. Quest'ultimo infatti non si limitava ad argenamande bianco ai pareti, ma lavorava de fino con pretese artistiche. I garzoni di bottega facevano l'apprendistato lavorando gratis, anzi pagavano pure qualcosa al mistro, che veniva in tal modo ricompensato par verga insegnare un mestiere altosato che altrimenti el sarie andade pitandon. Più spazio di tutti serviva al lavander, che era un grosso professionista, poiché si sobbarcava quantità industriali di biancheria da lavare per conto terzi e in particolare per grandi alberghi veneziani. Schiere di lavandere si recavano sul pontil portandosi dietro la toia da lavar. Per ore, inginocchiate sulla riva del canale del fiume, chine sull'asse di legno posata sul lampor, immergevano i panni nell'acqua corrente, li insaponavano e strofinavano e resentavano, cioè li sciacquavano, stendendoli infine su fili aerei. Alcune volte nel corso dell'anno le massaie si decidevano a far aissia, cioè ossia detergevano i capi più resistenti in capaci caldiere in cui bolliva, mescolata all'acqua, cenere di legna. In quell'occasione si sburatava a casa e si dava il cambio a tovaglie, indumenti e lenzuola, riponendo, con l'inizio della bella stagione, colsare e coperte pesanti. I barcaroi provvedevano al trasporto fluviale di merci e persone, sistema che era spesso conveniente rispetto al percorso via terra, condizionato dalla limitata capacità di carico dei carri e dalla lentezza del traino animale. Chiatte e grossi barconi scendevano i principali corsi d'acqua della regione e quando dovevano risalire la corrente venivano trascinati per mezzo di lunghi canapi da buoi e lavoranti che camminavano lungo la restera. E poi, naturalmente, e come emigranti, ecco, un punto dolente della nostra società contadina. Accanto alle botteghe degli artesani e dei commercianti operavano sulla pubblica via molti personaggi a volte pittoreschi che il progresso e la tecnologia hanno resi obsoleti al punto da farli sembrare ormai destinati a sopravvivere solo nella memoria del folklore locale. Tutti comunque si dava in manda torno, ingegnandosi per sbarcare il lunario e ciapparsi un franco. A qualcuno riusciva perfino di mettere previdentemente da parte qualcosa per il domani, perché a sto mondo che se pi giorni che uganega. Quelli che non avevano arte né parte o non volevano usare olio de comio rischiavano di dover andare a magnar dai frati, ossia mendicare il classico tozzo di pane. Ma la maggior parte si adattava a qualsiasi lavoro. Si presentava sempre qualche opportunità. L'abilità dell'uomo prevaleva ancora sulla macchina e del resto con l'acqua tocca il cuoio se impara a nuar. Qualcuno l'azienda se la portava presso, nel senso che tutto il suo capitale stava nel baroccio o sulla bicicletta e anziché aspettare i clienti se li andava a cercare di paese in paese. Era il caso del moeta o ueta, che arrotava forfe e cortei su una mola azionata dai pedali del velocipede, lubrificando il sistema con un rivolo d'acqua che gocciolava sulle lame attraverso il bichignol del bussoeotto. Figura caratteristica di questa varia umanità era anche l'uomo del pesce, spesso straco, il pesce si intende, a causa della forzata permanenza sul careto e che inevitabilmente spussava da freschin. Le numerose vie d'acqua che collegavano il litorale con l'entroterra rendevano agevole e soprattutto rapido l'approvvigionamento del pesce de mar, mentre quello d'acqua dolce, abbondando sul posto, non aveva mercato. La poeamera esibeva cesti di uova, si sperava fresche, e animali de cortio. Sull'uscio dell'osteria stazionava l'uomo dei bogoi, le chiocciole, conditi con aglio, olio e sale, che venivano serviti in cartocci ed erano propedeutici per un'ombretta de bianco, che a Treviso e dintorni è sempre stato l'aperitivo più gradito e diffuso, e al quale venivano attribuite virtù terapeutiche. È noto infatti che un bicchiere di vino bianco, bevuto la mattina del 1° agosto, tiene lontani i malanni. Nella bella stagione aveva il suo da fare il geater, che ingoiosiva i putei, ma anche i grandi, servendo baete de geato. Mentre all'approssimarsi dell'inverno i venditori di caldarroste contribuivano a combattere il freddo, distribuendo castagne e marroni che arrostivano a farsora sopra un fuoco di legna. Fra quanti svolgevano incarichi socialmente utili, facendo mestieri per così dire umili, va resa giustizia all'impegno quotidiano del terassier e del squassin, oggi promosso operatore ecologico, i quali, muniti l'uno di badile e rastrello, l'altro di ramazza e scoassera, rassettavano strade e piazze e le ripulivano dalle immondizie e dalle foglie cadute dagli alberi. Nel periodo di siccità il comune provvedeva a far springare strade coa botte dell'acqua, intervento che si rivelava efficace anche per cancellare le odorose tracce del passaggio di vacche, cavalli, asini, pecore e altri animali, utenti indisturbati della viabilità fino all'affermazione dei mezzi motorizzati. Tuttavia, malgrado la buona volontà e gli accorgimenti per combinare disnare e sena, c'era chi non avanzava l'acqua per lavarsi. E mentre qualcuno, più scaltro e forse meno scrupoloso, specialmente in periodo di guerra, se faceva a ponga, altri si vedevano costretti a prendere decisioni drammatiche. Ridotti talvolta dalle disgrazie o dal numero eccessivo di bocche da sfamare a sgorlare il perer, ossia a consumare le ultime risorse, molti nostri compaesani scelsero di emigrare, chi nelle Americhe, chi in Australia e negli altri paesi d'Europa, con la speranza di una vita meno grama. Come ricorda Monsignor Mario Andreazza nel suo libro sulla storia della comunità roncadese, in meno di un secolo, a partire dal 1870 al secondo dopoguerra, espatriarono dal Veneto quasi 3 milioni di persone. Sedotti dal mito d'America, dovunque essa fosse, partivano, portandosi dietro una valigia di cartone dopo aver speso gli ultimi soldi per acquistare un biglietto di sola andata. Alcuni sono tornati, altri hanno fondato sul suolo straniero comunità simili a quelle da cui si erano allontanati, conservando in molti casi il dialetto d'origine. Di questi nostri concittadini dovrebbero ricordarsi più spesso anche le istituzioni, favorendo ogni iniziativa volta a mantenere agli emigranti il ricordo della terra d'origine. Ed ora, per onorare, diciamo, questi nostri fratelli che si sono allontanati dalla madre patria, America. Oh, Ed eccoci di nuovo in studio per un'altra tranche di questa trilogia contadina. E qui ora mi leggerò un paio di brani da A piede scalzi, che è il secondo dei libri di questa, come dire, epopea. A piede scalzi, sottotitolo è Il saver dei noni. Onto come un porcel. Naturalmente, per tradizione, certi giorni erano ritenuti particolarmente propizi per l'uccisione del maiale, o viceversa. Un antico detto recita: Sant'Omè ciapa il porco par i piè. La festa cade il 29 dicembre. Il periodo utile si protraeva fino al termine del carnevale, con un'esclusione tassativa del 17 gennaio, giorno di Sant'Antonio Abate, in memoria della compagnia che costui godette, secondo i suoi agiografi, di un porcellino durante la sua permanenza penitenziale nel deserto. Questo insospettato rapporto di comunanza con i santi sembra una costante dell'amico maiale, e lo ritroviamo a proposito di un'antica consuetudine che però sembra ormai scomparsa nelle nostre campagne. Il porcel de Sant'Antonio era l'offerta che la comunità riservava al pievano di un maiale che veniva ingrassato a spese di tutti i parrocchiani, una specie di quartese o decima non obbligatorio che era sentito come doveroso nei confronti di chi aveva la cura delle anime. Dalle nostre parti, del resto, i preti hanno sempre goduto grande rispetto, conformemente al consiglio che gli anziani davano ai più giovani e più spavaldi. Preti e capitei, caveve il capeo e rispetei. Ma la pratica, per quanto meritoria, si prestava a una definizione poco caritatevole nei confronti di chi bigallonava mendicando un tozzo di pane, mostrando di essere come il porcel de Sant'Antonio. Ancora un santo, e che santo, ha avuto a che fare con il maiale. Mi riferisco all'avventura straordinaria dell'evangelista Marco, che dopo aver predicato il Vangelo prima a Roma e successivamente ad Alessandria d'Egitto, quivi subiva il martirio ad opera dei pagani. Il suo corpo, preservato miracolosamente dal rogo al quale era stato destinato, fu sepolto in quella città e la sua tomba fu venerata anche durante la dominazione musulmana. Nell'828, secondo alcune cronache, due mercanti veneziani trafugarono il corpo del santo, sottraendolo all'umiliazione del dominio degli infedeli. Si racconta che la preziosa reliquia fu portata a Venezia a bordo di una galea celata in una pelle di porco. Questo accorgimento avrebbe impedito ai doganieri musulmani di indagare sul contenuto dell'involto, perché secondo la religione islamica, ma anche per gli ebrei, il maiale è una bestia impura e perciò intoccabile. L'avversione per questo animale e il conseguente divieto di cibarsene deriva da un precetto coranico ispirato probabilmente da motivi igienici. Infatti il maiale ospita, e ancor più in passato, alcuni parassiti come la trichina o la comune tenia, il verme solitario, che facilmente si trasmettono all'uomo, specialmente in quelle torride regioni. Nei paesi occidentali, al contrario, non esistono remore di questo tipo. In compenso noi proviamo una grande avversione a cibarci di certi insetti, bruchi o rettili, che altrove sono considerate delle vere e proprie golosità. E l'allevamento dei maiali risulta particolarmente conveniente per almeno due buone ragioni. Le scrofe sono molto prolifiche e i maiali in generale non sono schizzinosi quanto al nutrimento. Mangiano praticamente di tutto, fatta eccezione per le zucche, metaforicamente parlando, che poggiano sul collo di certe persone che non le mangia neanche i porcei. Se è per questo, non badano molto nemmeno all'ambiente, come prova il detto facilmente riferibile a cattive abitudini umane che ai porcei che piace l'acqua sporca, suffragato da quest'altro ancor più denigratorio, el zeunto come un porcel, detto di una persona poco pulita, definita anche con un elegante traslato, bambin da ghiande. I nostri contadini, fra l'altro, consideravano il corpulento animale tardo di comprendonio, senza portare prove convincenti, ma tant'è. Di chi non brillava per intelligenza sostenevano che è il gadormio in te a camera dei saiami, e se con il progredire dell'età mostrava di rimbambire non si peritavano di sentenziare «Ese partio saiame, ese torna museto», il cotechino, cioè meno pregiato. Lo stesso significato lo assumeva la maliziosa osservazione «Ese indrio come a coda del porcel», appendice la sua di forma inconsueta, avvolta su se stessa come un succhiello e quindi poco sviluppata. La causa della sua strana forma, stando a quanto si raccontava ai bambini durante la veglia serale, l'ho riferita nell'Inverno di Toni. Ne riporto una sintesi perché è una favola che mi ha affascinato. Eccola. Quando il Signore creò gli animali, trovò molto utile dotarli di una coda. In questo modo, ogni volta che ne inventava uno, un angelo comandato a questo scopo lo calava dal cielo, tenendolo saldamente per la sua appendice. Seduto sulla luna, il creatore non faceva in tempo a concepire un nuovo animale che quello già saltellava, o volava, o strisciava, o nuotava, impaziente di entrare nel nuovo mondo. Arrivarono così sulla terra asini e mucche, lucertole e topi, cani e gatti e tutte le specie di pesci ed uccelli. Ognuno di essi, come sapete, ha la sua bella coda che sembra fatta apposta perché qualcuno la afferri. Ad un certo punto il Signore decise di creare il maiale e di farne dono ai contadini. Detto fatto, fece un segno di benedizione e subito al cospetto dell'angelo apparve un bel maialino grasso, anch'esso con la sua coda diritta, e l'angelo si preparò a calarlo attraverso le nuvole. Già l'angelo lo aveva sporto dal bondo della luna, lo teneva a testa in giù, quando proprio in quel momento un lampo scintillò più luminoso della luce del sole e un forte tuono rimbombò da un capo all'altro del cielo e si levò un grande vento, come succede quando una forte buriana si prepara a sconvolgere i campi di grano maturo. La colpa fu forse dell'angelo, il quale, distratto dalla nuova meraviglia operata dal Signore, aveva trascurato di dosare il moto delle sue ali, creando un'improvvisa perturbazione degli elementi. Fatto sta che la povera bestia non aveva mai visto una cosa simile e si prese un grande spavento. Cominciò a implorare l'angelo di tirarlo su e, poiché quello non se ne dava per inteso, avendo avuto l'ordine di depositarlo sulla terra, il malcapitato maiale, investito dalla bufera, incominciò a rotolarsi nell'aria e girare su se stesso, temendo per la sua vita. Ma la mano dell'angelo, per fortuna, lo tenne saldamente finché anch'esso, benché molto impaurito, giunse a destinazione. Ma la coda gli rimase attorcigliata per sempre, perché si ricordasse che non bisogna dubitare del Signore. Anche questa parte dell'animale aveva i suoi estimatori e l'utilizzo non era solamente gastronomico, prestandosi anche al motto El Zena Mesa Coa, riferito a un poveraccio, come a dire un poro can. E a proposito di prodotti secondari, anche il sangue rappreso dell'animale ucciso veniva utilizzato per fare una specie di dolce rustico, il baldon, cioè sanguinaccio, talvolta insaporito con farina e uva passa. Malgrado questo accorgimento, esso restava comunque un piatto povero, di ripiego, poco apprezzato. Della stessa scarsa considerazione godeva chi contava poco nella società rurale del tempo. Tessi un baldon non era propriamente un complimento. Riconoscevano però le virtù nascoste del maiale e ricordavano, in un detto ormai desueto, che l'importante è essere come porcel beo drento. I nostri vecchi non si tiravano indietro nemmeno quando erano in vena di cortesie. Il dovere della solidarietà suggeriva di offrire ai visitatori almeno una carega e un piatto de buona siera, ma se l'ospite era particolarmente gradito e la visita inopportunamente coincideva con l'ora del desinare, non mancavano di dividere con lui un piatto de menestra o più frequentemente un goto de vin bon. Chi disponeva di un po' di avanzi della tavola non mancava di farne parte con l'amico, rassicurandolo preventivamente che genese par strassaria. L'invito a approfittarne era formulato nella frase rituale, della quale non rilevavano l'involontario sarcasmo: «Magnati, compare, se no mi tocca dargene ai porsei». E queste sono divagazioni di, come dire, tempi andati, che però conservano uno straordinario, come dire, modo di trasmettere quelle situazioni che sono ormai diventate epoca, come dire, assolutamente dimenticata. Questo anche immeritatamente, perché molte erano le cose che noi dovremmo ancora imparare da questi. E il fiol dell'oca bianca. I pennuti domestici destinati all'alimentazione erano, fino almeno alla metà del Novecento, assai più numerosi presso le abitazioni rurali di quanto non lo siano oggi, sia in termini di quantità che di specie. Benché in effetti risulti difficile immaginare una casa di campagna priva del pollaio, sembra che l'interesse attuale di quanti possiedono un pezzo di terra o almeno un cortile si rivolga quasi esclusivamente all'allevamento delle galline, mentre un tempo non era così, per quanto il lontano passato fosse indicato ironicamente come «quando che i ferava i gaine». Complice il gran numero di bocche da sfamare di cui era costituita la famiglia patriarcale e l'oggettiva convenienza a procurarsi sul posto della buona carne bianca, raramente si metteva in tavola il manzo, non era difficile mantenere con i residui della produzione agricola, diverse qualità di volatili. Erano piuttosto comuni le faraone, che conducevano una vita semiselvatica, andando a deporre le uova in coati nascosti, tanto ai predatori quanto agli esseri umani. Un po' meno frequenti i bellissimi pavoni dalla voce sgraziata, ma nel cortile o nelle adiacenze delle grandi case coloniche razzolavano i dindi, sintesi di pollo d'India, ossia i tacchini, che in campagna chiamano piti o pitoni, benché gli omonimi serpentoni tipici dell'Africa occidentale non c'entrino per niente. Del pari è indecifrabile il coinvolgimento di questi animali in alcuni detti dialettali apparentemente senza senso, come ciaparna pitona, per esempio, col significato di ubriacarsi. Una spiegazione può essere la seguente: poiché sembra che la tacchina, una volta deposte le uova, non si mostri molto assidua nel covarle e preferisca bigallonare per l'aia, i nostri contadini usavano abbeverarla, non so se con grappa o altre misture, in modo da indurla in uno stato confusionale che la costringeva a starsene abbiosciata sul nido, fornendo la temperatura necessaria alla schiusa. Altrettanto curiosamente si usava definire bovide pitona le lentiggini che affliggono con frequenza le persone di pelo rosso. Mentre fanno parte del patrimonio linguistico italiano, frasi come diventare rosso come un tacchino, con allusione ai bargigli dell'uccello nel periodo del corteggiamento, e fare la ruota come un tacchino, per significare un atteggiamento assai vanitoso. Ma qui parliamo anche di, altre cose, come continuando a elencare le specie di volatili del cortile, meritano una citazione particolare le oche e le anitre, uccelli per molti versi simili in quanto dotati di zampe palmate, utilissime per la natazione ma inadatte a percorsi sulla terraferma. Effettivamente l'andatura di questi uccelli appare goffa e contrastata, con la grande agilità che mostrano nell'ambiente lacustre. Di una donna che incede menando il cueo, ossia ancheggiando vistosamente, non mancavano di osservare che cammina come una anara. Le oche tuttavia possono esibire un curriculum storico e letterario di cui altri palmipedi non possono menare vanto, ad eccezione del nobile cigno, il quale quanto alla voce non merita l'invidia delle cugine, benché gli antichi sostenessero il contrario. Secondo una leggenda sostenuta anche da Platone, questo animale, prima di morire, emetterebbe il suo ultimo canto specialmente melodioso, ossia il canto del cigno, riferito alla migliore ed ultima performance di un artista. L'attitudine plebea delle oche, per esempio, si è palesata fin dall'antichità, quando esse, con uno starnazzare scomposto, allertarono le sentinelle del Campidoglio, consentendo alla guarnigione romana di respingere l'incursione dei barbari. La storia non dice quali punizioni andarono incontro i soldati di guardia, ben poco allerta. Con scarsa riconoscenza, gli esseri umani, in memoria della presenza di spirito dimostrata dalle oche in quella circostanza, hanno spinto la loro impertinenza fino al punto di servirsene per paragoni irriverenti. Così, ad esempio, andare in oca, contro ogni evidenza, vuol dire dimenticarsi di un impegno. Dire di una ragazza che asena oca sottende un giudizio poco lusinghiero. Andare a pasto coi occhi si riferisce a chi va a zonzo con poca o punta voglia di dedicarsi a qualcosa di serio, e decisamente sconveniente è l'interazione porca loca, che a sentirla fa davvero venire la pelle d'oca, ovvero la fa accapponare. Pone un certo rimedio alla denigrazione di cui sono soggette le povere bestie la citazione che se ne faceva nel gioco della tombola, quando veniva estratto il numero 22. Il cuo segno grafico 22 ricorda proprio una coppia di oche che procedono, come loro abitudine, in fila indiana, e perciò veniva proclamato come eochete. Analogamente il 77 era e gambe dei femmine. Ad esse era intitolato anche il popolare passatempo dei più vicini, l'intramontabile gioco dell'oca, a dimostrazione di una considerazione anche maggiore. È innegabile del resto che l'oca ispiri simpatia, come testimonia il successo pluridecennale dei fumetti incentrati sulla figura di Paperino. Attorno a questo personaggio contraddittorio, irascibile, patetico, scalognato e velleitario, disegnato con arguzia dal compianto Walt Disney, ruota una vasta parentela di pennuti che rappresentano pregi e difetti degli umani. Altri detti ormai desueti, ma vivi nella tradizione contadina, ci ricordano che le oche erano un capitale apprezzato e un simbolo di disponibilità economica in un'epoca in cui raramente sulla mensa rimanevano avanzi delle portate. Chi godeva di maggiori opportunità era il fiol dell'oca bianca, in lingua diremmo nato con la camicia. Oppure gli era riuscito di far il becco all'oca, ossia un affare gli era andato benissimo. Non altrettanto a buon fine andava l'approccio amoroso del giovanotto, al quale la ragazza, ritrosa o scaltra, rispondeva perentoriamente «qua non si magna oca», facendo intendere che nessuna concessione sarebbe stata gratuita. Comunque, sia restando alla metafora, non è facile pear loco senza farlo sigar, ossia sfruttare il prossimo a proprio esclusivo vantaggio, e soltanto la pazienza può consentire il risultato desiderato, almeno stando a quest'altra saggia considerazione che raccomanda «na pena a volta se pea loca». Si presta poi a due interpretazioni diverse la frase «portarghe e oca il paron», che può riferirsi a una circostanza favorevole che determina un guadagno o un risultato insperato. Nel gioco delle carte, la calata di un asso o una briscola che fa vincere la mano, ma ricorda anche l'usanza servile di offrire le primizie e i bocconi migliori al paron de a terra per ringraziarselo, senza la volontà di un atto di dedizione proprio di colui che è il gavaria porta l'acqua coi rece al soggetto e all'oggetto del proprio amore. L'oca si distingue dall'anitra anche sotto il profilo culinario. È buona norma preparare l'oca rosta e l'anara lessa, ma in qualunque modo l'oca venga cucinata, nel rispetto della tradizione tuttora viva in molte località del Veneto, il giorno più indicato per mangiarla è l'11 di novembre, festa di San Martino. Stagione fredda, quella che si avanza dopo l'immancabile Istadea de San Martin, per cui all'oca veniva richiesto un ulteriore servizio, la fornitura del pregiato piumin de oca, con cui si imbottivano le colsare per i monumentali letti de scartossi. Se si preferisce l'anitra, è necessario distinguere le varie specie, risultato di numerosi incroci. Il capostipite di tutte le razze domestiche è il germano reale, Anas platyrhynchos, becco piatto, che i cacciatori di valle identificano come il masurin o il masaro. Il perché di questo termine ha due spiegazioni. La prima lo fa derivare da maggiorino, dal momento che effettivamente è la più grande fra tutte le anitre selvatiche, ma è senz'altro più suggestiva l'altra tesi, secondo la quale il nome masaro indica la sua apparente provenienza, il germano è specie migratoria, dalle zone umide dell'Ungheria, i cui abitanti per l'appunto sono i magiari, masari nella trascrizione fonetica lagunare. Sia come sia, di anitre se ne allevano, e se ne allevano tuttora, parecchie razze che vanno dai germani, appunto disegnati come anaree selvareghe, alle anere mute, i cui grossi maschi, a dispetto del nome, si fanno sentire e con sonori sbuffi si fanno minacciosi quando viene il momento di tirar loro il collo. Ecco qui, questa, diciamo, seconda tranche si conclude. E andiamo con un altro intervallo musicale che, cambiando di genere, andiamo su Mario del Monaco, che è un trevisano d'adozione, Un amore così grande. Sento sul viso il tuo E andiamo per l'ultima tranche di questa trilogia con un titolo, diciamo, più ironico di Bruno, che ci ha lasciato 10 anni fa: che a Piazza, che a Tasa, che a Staga a casa. Naturalmente qui si parla di donne e quindi pur nella consapevolezza che parlare de femmines è come sustar un nio de vespe, Bruno si è cimentato in questa opera sempre di, a cura di Piazza Editore. Chi non ha barba non ha cervello. È tuttavia ancora possibile distinguere la femmina dal maschio per via di certi attributi esclusivi collocati al di sotto della base del cranio, che secondo alcuni ricercatori stanno ad indicare un imperfetto assemblaggio delle parti anatomiche di lei e confermano come l'opera prima sia spesso seguita da una replica più scadente. Forse la costola usata per la produzione della donna era incrinata. Chi dice che Adamo non se fosse rotta qualcuna cadente dagli alberi del giardino quando ancora saltava di ramo in ramo come uno scimpanzé? E probabilmente anche l'alito soffiato in bocca alla creatura per vitalizzarla conteneva qualche tossina che si deve essere accasata sotto le radici dei capelli. C'è addirittura chi ha confrontato la massa dei diversi cervelli in relazione al sesso, scoprendo che quello della donna è più piccolo, il che ha generato il motto cervello di gallina in riferimento a una persona sciocchina. Affermazione impertinente secondo alcune associazioni di protezione degli animali che ritengono il paragone offensivo per le galline. Tuttavia non pare che ci sia relazione tra il volume o il peso del cervello e le capacità intellettive del suo possessore. Infatti quello degli umani pesa mediamente 1400 grammi, mentre quello delle balene ne pesa 6800. Se volessimo seguire il semplice criterio della grandezza fisica dell'organo, balene, elefanti e ippopotami dovrebbero essere tutti premi Nobel. Unica correlazione non provata fra l'intelligenza e dimensioni del cervello: uno scimpanzé ne vanta uno di appena 420 grammi, ossia non molto più leggero di quello delle donne. Quest'ultime ovviamente obiettano, affermando che è l'uomo e non la donna il discendente delle scimmie, e per suffragare quella loro curiosa convinzione chiamano in casa Celentano, Beruschi e i fichi d'India e li presentano come l'anello di congiunzione cercato da Darwin. Al contrario, ammesso e non concesso che l'uomo derivi dalle scimmie, allora la donna rappresenta uno stadio poco avanzato dell'evoluzione, perché conserva nella chioma la maggior parte del retaggio animalesco, mentre l'uomo perde i capelli in parte sui denti del pettine e in parte nella minestra. In realtà la calvizie è prerogativa e vanto dell'uomo, lo sosteneva con argomentazioni irrefutabili già intorno al 400 d.C. il vescovo e filosofo Sinesio di Cirene, calvo come una palla da biliardo, che nell'elogio della calvizie afferma testualmente: «Se è vero, come è vero, che l'uomo è fra tutte le creature la più divina, fra gli uomini che hanno avuto la fortuna di perdere i capelli, l'individuo completamente calvo è in assoluto l'essere più divino sulla terra». Non ci si complimenta del resto con il geniale titolare di un bel cranio lucido, definendolo una testa d'uovo? Come controprova, sei mai trovato un pelo nell'uovo? A conferma dell'autorevole opinione di Sinesio sta l'ipotesi non propriamente teologica, secondo la quale il creatore, dopo aver osservato la qualità delle varie teste dei moltiplicatesi bipedi umani, per evitare critiche decise di nascondere le più insignificanti sotto uno strato di peli. Constatazione avallata dalla saggezza dei bisnonni, i quali affermavano che donne se longhe de cavei ma curte de cervei. Questo detto non è esclusivo di una determinata area geografica, infatti è la versione veneta di un identico proverbio medievale tedesco e ha il suo corrispondente in molte lingue. La funzione principale della chioma muliebre sembra essere quella di offrire una presa per le femmine che vengono alle mani, cioè s'accapigliano. Le chiome femminili, come noto, sono mal tollerate dalle religioni. La Chiesa Cattolica impose l'uso del foulard alle donne che partecipavano alla messa allo scopo di nascondere acconciature in grado di distrarre i fedeli durante il rito liturgico. Questo precetto è scomparso in anni recenti insieme con altre prescrizioni troppo rigide o troppo idiote, comunque rapportate a un comune senso del pudore che oggi ci fa sorridere. L'obbligo che tuttora sussiste nei paesi musulmani di portare il chador, il velo islamico che nasconde la testa e parte del viso, crea non pochi problemi di identificazione e contrasta con la legislazione vigente nei paesi occidentali. Ricordo che il prete fino agli anni 70 tuonava dal pulpito non soltanto contro i riccioli ribelli e i precetti canonici, ma anche contro le ragazze discinte che andavano a messa con gonne corte e gomiti scoperti. A questo proposito si racconta di una scaltra fanciulla la quale, forse a causa del caldo o più probabilmente per innata civetteria o per provocazione, osò entrare in chiesa con le gambe nude. All'epoca, prima che affermassero sul mercato i collant tubolari, le calze mostravano dietro la gamba il segno scuro della giuntura sulla quale indugiava lo sguardo indagatore del pievano che diligentemente passava in rassegna le pecorelle più a rischio. La cucitura verticale indicava che la pia indossava il capo di ordinanza. In realtà quella volta la birichina era ricorsa a uno stratagemma e aveva semplicemente disegnato la riga con un tratto di inchiostro che sarebbe sparito alla fontana appena uscita dalla chiesa. Chi ignora che è femmine che ne sa una pir del diavolo? In natura le differenze morfologiche fra i due sessi non sono sempre marcate. Per fare qualche esempio, un merluzzo non appare diverso da una merluzza, se così si può dire, e un oco non si distingue per niente da un'oca. In molti altri casi però il dimorfismo sessuale, ossia la diversità di certi attributi fisici, non ammette equivoci. Un leone si distingue dalla leonessa a causa della criniera e un germano reale ostenta colori che la compagna non ha. Se ci facciamo caso del mondo animale, i maschi sono sempre più belli delle femmine, al contrario di quello che si riscontra nel genere umano. Ammetto che le donne trovino certi uomini affascinanti, ma personalmente non baratterei Manuel Arcuri con Ras de Gang. E questa è una delle storie. Altre storie che si possano raccontare. Ce n'è una che dice come a lengua se a spada dei femmine. Oh. Le automobili dovrebbero essere considerate un mezzo di trasporto unisex. In realtà esse solleticano l'interesse delle donne in relazione al fascino, all'età e all'apparente prosperità economica del macho che sta al posto di guida. Sono l'equivalente maschile del sex appeal femminile. Un tizio al volante di una vettura sportiva o di una Spider, chissà per quale motivo, agli occhi delle donne ha più fascino di Brad Pitt a piedi. Poco importa che la fiammante cabriolet sia scoperta come l'assegno emesso per l'acquisto, e bisogna quindi riconoscere che il rapporto con le automobili interessa più da vicino gli uomini, i quali riversano sui mezzi meccanici le cure che essi riservano alle donne, giungendo a nutrire nei loro confronti le stesse ambizioni di possesso. Il parallelo autodonne è assolutamente proponibile. Infatti, tanto le une come le altre hanno tratti in comune pur nella diversità delle funzioni. Per cominciare, entrambe rappresentano un oggetto del desiderio maschile, costano, soprattutto per il loro mantenimento, sono pericolose in presenza di curve, ci possono montare sopra più persone, si deprezzano in proporzione all'uso e la data di immatricolazione, mentre agli occhi degli amici conta più la carrozzeria che il motore. L'unica differenza risiede nel fatto che le auto, quando sono vecchie, si possono rottamare. Qualche volta, per dire la verità, le auto finiscono dalla sfasse carrozze per causa, per merito, dipende dai punti di vista, i concessionari ringraziano, delle improvvide guidatrici. Il geltinsesso ha un rapporto sofferto con i mezzi meccanici in genere e con quelli su ruote in particolare. Le veneziane hanno poca confidenza perfino con la bicicletta. In generale, stando a una malignità diffusa, le donne al volante rappresentano un pericolo costante, ma le statistiche sugli incidenti stradali non sembrano confermare questa ipotesi. Va detto piuttosto che fra esse e le automobili non c'è feeling, probabilmente per affinità di carattere. Infatti, tanto le une quanto le altre sono propense alle sbandate e a fare quello che non sempre è logico, e questo rende inevitabile una certa conflittualità. Capita così che, inspiegabilmente, la macchina vada a cozzare contro un albero, il quale, anziché starsene fermo sul ciglio della strada secondo l'attitudine delle piante, si immette sulla rotta del veicolo. Altre volte è il portone d'accesso al garage che si restringe senza preavviso, modificando la sagoma del mezzo. Capita perfino che l'auto recalcitri, sbattendo col di dietro contro un muro, benché la sua domatrice fosse convinta di aver innestato la prima. Poi ci sono i trabocchetti predisposti dai costruttori con lo scopo di mettere in imbarazzo le guidatrici. Il freno a mano, per esempio, resta rigidamente fedele alla consegna di agire da sistema di stazionamento, a meno che non ci si ricordi di abbassarlo, e si ostina a non far partire la macchina malgrado le furiose accelerazioni. Perciò le patentate più avvedute evitano di azionarlo quando arrestano la marcia. In questo modo l'avvio della macchina, anche senza autista, risulta molto agevolato, specialmente se si parcheggia su strade di montagna. Quando scelgono un'auto, le donne mettono molta cura nell'esame dell'arredo interno e degli optional, e per prima cosa assaggiano la funzionalità del specchietto retrovisore, oggetto indispensabile per controllare l'acconciatura, l'allineamento delle ciglia, i brufoletti, la lucidità del rossetto o le piccole sbavature del rimmel, o per dare un'occhiata interessata alla faccia del tizio alla guida dell'auto che le tallona da presso. Il vano portaoggetti è abitualmente stipato da una grande varietà di cosmetici. In ogni caso deve contenere pacchetti di fazzoletti di carta, occhiali di varie fogge, colore e uso, da sole, da lettura, da ricerca, per cercare altre paia, scatolette, portapillole, sigarette, agendina, gomme da masticare, pettine, cipre e altri ammenicoli. Ad ogni richiesta della polizia di esibire patente e libretto, il panico si impadronisce dell'automobilista femmina, poco propensa ad esibire ad estranei dotazioni così personali, e costretta tuttavia a sciorinare il contenuto sui sedili e sui tappetini fino a giungere ai sospirati documenti. Segue, in ordine di importanza, l'autoradio. La musica diffusa nell'abitacolo concilia il rilassamento mentale e svolge all'occorrenza l'utile funzione di indirizzare verso un punto preciso le ricerche dei soccorritori che si apprestano a recuperare l'automobile dal fondo del fosso. Anche il grado di inclinazione dei sedili ha la sua importanza, perché non si deve trascurare l'eventualità di abbandoni amorosi. L'attenzione delle auto patentate si rivolge infine all'antenna ricevente, che si rivela utilissima per asciugare in fretta piccoli capi di abbigliamento o per inalberare nastri e coccarde in occasione di feste di nozze. Ben poca curiosità invece desta l'apparato meccanico, che rumoreggia sotto il cofano. Per le donne la presenza di un motore è un atto di fede, da qualche parte ci deve pur essere. Come la ruota di scorta. In caso di foratura, tuttavia, non è tanto urgente individuare il nascondiglio dove sono allogati il crick e la ruota, quanto cooptare un galante giovanotto in grado di cambiarla. La soluzione del problema dipende dall'avvenenza della guidatrice in pan e al tratto di coscia che esibisce. Le signore oltre l'età sinodale bivaccano a lungo sul bordo della strada in attesa di un buon samaritano legato ai ricordi dei amicisiani. Nell'attesa dei soccorsi prendono intanto a calci le fiancate della macchina. In pratica le donne usano le automobili come gli uomini, le strapazzano. Nei confronti di altri aggeggi si mostrano imbranate e in grado di inconsapevolezza, è tanto più alto quanto più bassa è l'età dell'utente. Questo si verifica anche quando si tratta di oggetti della tecnologia elementare come teglie, tegami e padelle. Mentre vanno scomparendo mamme e suocere della vecchia scuola, nelle ragazze da marito cresce l'imbarazzo in cucina, e malgrado ogni matrimonio ci sia chi regala la coppietta ricettari fotografici in carta patinata e intere batterie di pentole, le giovani sposine non hanno una cultura culinaria. Soltanto dopo le rimostranze del marito si rende conto che ci sono alternative alle uova sode e che le scatolette vanno servite aperte. E dopo questo excursus, diciamo, da parte straordinariamente mordace, ma naturalmente Bruno sa che l'altra metà del cielo è quella che conta di più, E noi andiamo a completare la nostra carrellata così di chiacchiere di una volta, di storie de no altri, con un brano piuttosto irriverente, sempre nell'ambito così veneziano questa volta, dei Pittura Fresca Pink Floyd, che ricordano una memorabile, diciamo, esibizione di questo gruppo musicale in piazza San Marco a Venezia. Ed eccoci di nuovo in studio per un saluto finale. Naturalmente noi abbiamo fatto questa carrellata che speriamo vi sia piaciuta e vi do l'appuntamento assieme a Jesi alla prossima volta. Grazie e buona serata. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.